noci, dalla miseria e dalla povertà, dagli egoismi e la falsità, da chi comanda e rende schiavi noi, questo mondo che va a rotoli. Liberiamoci, sì sì sì, perché vogliamo un nuovo mondo, perché appartiene anche a noi, noi che crediamo ancora nei diritti della libertà. Liberiamoci dalle centrali nucleari, dalla fame che investe il mondo, dalle guerre e la violenza, dalle torture e le galere, dalle distruzioni che devastano, che uccidono la mente con quest'aria inquinata. Liberiamoci adesso, perché il tempo va veloce, i diritti umani sono calpestati, il potere ci assalta, i potenti ignorano e condannano, condannano, condannano, condannano, reprimono, umiliano. Liberiamoci, liberiamoci, liberiamoci. Basta, basta, basta, basta. Liberiamoci da questo odio contro le razze e questo clima di terrore. Un altro mondo è possibile per la pace e la fratellanza. La gente piange, i popoli sono in fuga, questa terra brucia. Salviamo la natura. Liberiamoci, liberiamoci dal male che lascia ferite sulla pelle, e la vita cerca un volto nuovo, uscire fuori dalla schiavitù. I padroni no, i padroni no, i padroni no, i padroni no. Basta, basta, basta, i potenti ignorano e condannano, condannano, condannano, condannano, reprimono, umiliano. Liberiamoci, liberiamoci, liberiamoci. Basta, basta, basta, basta. Liberiamoci, oh, liberiamoci. Liberiamoci!